10, K. Attenzione, binario 10, binario 10, se c'è qualcuno, brecco. Ho comprato molto bene, ho comprato. di navigare. E sti che ci sono? Ci sono tutti tanti. Sono un po' alta la mia. La mia è già più alta. Non lo so. Dirci. È 5 metri di palo più che ha il palazzo che è più alto. Il tuo palazzo è quanti piani è? Il mio palazzo è a 4 piani più l'attico, sono 5 più la cabina, immagina. Vabbè, il mio è 2 piani. Ma bene o male la resa è quella, mia tu. Ce l'hai come quella di Marco Condor, dove ce l'ho sbagliato. Non ho messo in cosa, come quella che c'ha adesso, Marco Condor, tutti. Come quel, ce l'hanno i monti, ce l'hanno. Sono tutti di Mattessi, so. E durano, bella. E vabbè, te ne sai che vada bene, dopo tutti la frutti. Quella è Marco Condor è una piatta Midland, la mia è una piatta Sido, tutto lì è la colpa, però la terna è precisa identica. Questa radio che stai usando adesso che cos'è? È citofonica la radio, Mari, se va bene di detto qua. Quella è una 87. Un apparecchio che riusciva bene, qual era? Oh, è tanto. Beh, perché non usi quello? Adesso me ne vado a chiamare la letta, va. E uso quello lì, uso. Con come sto, me ne vado a chiamare la letta. E qua. Vado qua, vabbè, mi aspetto un attimo. Ho detto, un po' così è questa, ma l'ho detto tutti. Vai a cazzare cose che non ti stanno lì, meglio. Sto più casino, padre, madonna! E ti sgrida pure, eh? Allora, ma prendo il condizionatore e mi danno il camale, vorrei che ti piace. E io vado a prendermi il ventilatore invece, il tuo piccolino USB. Quello lì mi rinfresca bene, dai, mi fa stare bene, aspetta che non lo prendo, perché qua c'è il come il tuo camale? Eccomi, guarda com'è qua. Gianni, si sente? Attento Gianni, mi senti? Hola, hola. A tu, che va? Buonasera già. Don Maria. Cappa, buonasera Don Maria, buonasera a tutti. Com'è adesso la modulazione? Migliore? O già? Sì, adesso sì. Ciao Giomai, ben sentito dopo tanto tempo. Ciao già. Questo altro è migliore, questo è molto migliore della prima. Questo è il 48 con l'MB+4, Chi c'ha la saggosa? Però già, non è più bella questa qua la radio. Sì, questa è molto migliore, più chiara. L'altra era citofonica, rimaneva tipo dentro un baratto. Era barattolosa, capito? A me Giomai tutto bene, come va? Già. Che adesso insomma cosa che fa? Sta andando bene, grazie a Dio, va. Ma non c'è più voglia, non ho voglia nemmeno di uscire, di farmi il giro lì, che però come salute, grazie a Dio, non mi posso lamentare più di tanto, vai. Giovanni, ma ti fa compagnia anche il barattino, capito? Almeno che venga gente a casa tua e ti farò compagnia, perché il barattino magari ti fa passare un paio di ore insieme agli amici, dai. Ma ogni tanto l'accendo, ma non c'è nessuno già, non c'è nessuno, manco un'anima durante il giorno. Sicché no, lo accendo magari c'è un po'. Però non c'è nessuno, allora cerco di fare qualche altra cosa, però ogni tanto qualcuno già lo sente, da dire, ho sentito anche Antonello, e per cui ogni tanto diciamo faccio, dai, non è che ci abbia tanta voglia, però forse l'età anche già, e non ho più voglia, ecco, tutto lì. Infatti con l'età si lasciano tante cose, io prima andavo a piccare, vado un po' di cose, ho mollato tutto, servizio ambulanza e via dicendo, ho mollato tutto, perché poi più si va avanti e meno se ne ho voglia di fare cose, capito? Solo che una bella passeggiata me la faccio sempre, camminare già capito. No, è anche io la mattina, io tutte le mattine scendo giù, per cui ho anche il permesso di entrare con la macchina al cimitero, però non mi piace camminare a piedi, lascio la macchina fuori e vado a piedi, è lontano, mi sembra così, ma è lontano dove lì, per cui mi fa bene, ecco, perché dopo che rientro alle 9:30, 10, rimango a casa e non esco, assolutamente, non esco per niente, nulla, tutto casengo da una sedia all'altra e lo devo fare, boh. Ma che campagna sto scendendo qui, boh, sarà tutto abbandonato, boh. Non ho più voglia, con tutto lì. Vabbè, magari c'è anche un po' il fatto che non c'è più tua moglie, magari ti dà, ti fa venire malumori, capite, queste cose qui, non ti dà più la voglia, lo stimolo per fare le cose. Anche quello, allora, boh. No, mi sento sempre stanco, però se mi blocco è peggio ancora, però tutte le mattine io scendo giù, tutte le mattine per cui faccio quella passeggiatina e già mi fa bene, dai. Ok, vai a tu. Purtroppo anch'io mi sono passato, quando c'è un bambino piccolo è un disastro qua, credimi, è veramente difficile, con dei giorni che c'ero col mondo, non so neanche io cosa voglio, c'ero col mondo intero, è cazzato niente, perché sono cose difficili sono. Per come una persona che è giovane, però è diversa la questione, io magari la stessa età, è chiaro che le età ci sono e per cui sono tante cose che non va, capito? Però uno che è giovane riesce a superarla benissimo con tutto lì e lo so che anche tu hai quel problema, però da sei giovane tu, bisogna andare avanti. Così è già. E allora si trova una sua bella figliola, che è una che magari vogliamo bene anche al figlio, e così almeno c'è la compagnia. Infatti, oggi vai, sta avendo mia figlia, vai. Grazie, la chiacchieratina, mi ha fatto piacere, ti ho sentito, vai. Almeno ogni tanto già ci sentiamo, e fa piacere. Buon proseguimento già, ciao Antonio, riprendi tu, io chiudo, vai, buon proseguimento, grazie a chi ha te, anche se piccolo fa piacere. Grazie a te, grazie a te. Ma perché ti metti nei punti, dov'è? Non devi andare. Grazie Gio Mario, ce lo sentiamo alla prossima. Ciao ciao. Ciao Gio Mario, dai, mi ha fatto piacere anche a me, ogni tanto fai cucù. Sappiamo che siamo vivi. Mi metto giù di camera a letto. C'è più fresco. Madonna, ma lo faccio adesso che non va bene. Mamma mia, sta diventando incredibile, sta diventando. E più va avanti più si ribella, capito? Perché si stanno formando i caratteri adesso. Comincia a formarsi il carattere, deve farsi valere. Come questo è da, cioè, entra dentro il posto più strano, come c'è, comincia la moto sua, aiuti, aiuti, non si aiuto perché lui dice così. Vieni qua! Vieni qua, Bervante! Pure in giro di piglia! Chi piglia in giro di piglia? Qui si dice, ma è qua e comincia! Aiuti, aiuti! Lo sente che ha fatto? E ti prendo per il culo! Di pazienza ci vuole, qui già cresce. Già lo so, cosa è successo adesso? Vieni qua, vieni. Sono bene in giro, sei. È sotto il letto. Sotto il letto? Cesso. Ma i bambini sono tutti così, Ne combinava il piccolo anche, ma non la macchina, non lo so. Oh, fateci il gambo già. Ma non sai come si comporta, le combina una più del tempo. Cosa è successo ora? Cosa è successo? Vieni qua. Io ti paro un buco. Si mette a grido. Vai a prenderlo, si mette a grido. Ah, è incredibile. È incredibile quello che fa. Cazzo, mi stavo riposando dopo pranzo, mi sono dormito e andato al divano e di colpo mi è venuto questo crampo, cazzo, alla coscia, mi ha fatto svegliare il soprassalto dal dolore. Vieni qua, vieni qua, tu pedino, che sei piccolo, però prendevamo, vabbè, eravamo più grandetti, prendevamo in giro a nonno e a nonna e si arrabbiavano. Loro si sfogano quando giocano, giocano, si staccano e si trovano, allora se trovano da giocare con qualche bambino, qualche cosa, si sfogano e praticamente poi si addormentano perché si staccano. Già lo so, purtroppo il loro mondo è di stare con gli altri bambini, noi molte volte non li capiamo. Beh certo, vabbè, lui già va la cintola. Sì, quando si vedono è una comica, allora vanno più d'accordo. Anche tra bambini si musicano, io mi ricordo che a Manuela l'aveva musicato un bambino e lui gli ha tirato i capelli. È normale, è normale. Cosa li vuoi dire? Ho creato un riso. È successo. E ce l'ha detto, ma stato un attimo, si sono bisticciati, lui ha borsicciato la mano, ma aveva detto i capelli, si l'ha fatto arrivare la testa in terra. Gliel'ha tirato, l'ha fatto ammassare, si l'ha detto. E non riuscivano a staccarlo, quello che stava stringendo la mano, non riuscivano a staccarlo. Gli ha restituito, ma era, vabbè, quanto è Gabriele? Sì, andava all'Asilo Nido e dopo andava in via Fais, adesso mi pare che non ci sia più l'Asilo Nido. A me si vuole fare caro caro, mi? Vieni, vieni amore, vieni amore mio, mi ha carezzato, vedi? È ruffiano, ti vedete in giro tu, parli con Milo. Ma è bravo di cuore, non preso. È tutto casinista e cosa, mi va per muro piattamo di muro. Sì, i bambini sono così, dai. Te da una cotta una cruda. un baraccione, capito, si mette a gridi, fa, ma poi, alla fine è un baraccione. Sì, un bambino. essere cattivo, per carità. I bambini sono come gli angioli, lui non possono essere cattivi bambini. La cattiveria c'erano le persone adulte. No, ci sono bambini che fa carità, sono male è vero, ma è trammolazione, è un macoste, capito? Magari non so mai, sono irrequieti, quello sì, però cattivi non sono cattivi, dai. Magari mi converti in un che sono le sue irrequieti. Però anche i bambini si vedono, quando sono anche da manera, quando fanno l'istinto da sé proprio, è quando sono buonaccioli, cioè si vedono, capito? E poi se la portano la grande, il carattere c'è, ognuno c'è il suo, poi se lo stanno ancora formando il carattere, non è che c'è un carattere preciso, adesso ancora hanno una vita di fronte a tu, mi ha già detto. Lo so, me l'ho messa all'ombra, me l'ho messa perché non ci poteva entrare la macchina, quando sono entrato oggi non si riesce di... C'è un caso da morire in vera, vera un deserto del Sahara adesso non l'ho messa all'ombra, almeno quando mi siedo è più fresco. Ma non ce l'hai il coso da mettere davanti? Quelle copri per il sole, parasole, dai. Sì che ce l'ho, ma... non mi pare una mezza gaggata, devo comprare un altro più buono. Ripara davanti, almeno non ti scatta il volante, le marce, eccetera, eccetera. Io l'altra volta sono andato a prendere la macchina, mi sono questionato, che ero volato. Era proprio un bolletto. Ho detto che c'è questo ombrello che non va bene, mi ha detto. Chi su buon non mi ci trovo già? Non capisco perché. Questo normale no, non mi ci trovo io. Ma lo posso vedere a te, posso venire a te a vedere se tu mi dai qualche consiglio. Faccio un barato, ma non riesco a metterlo. Non riesci a metterlo, c'è però le ventose, tu si apre come l'ombrello e si attacca con le ventose, non ci vuole la laurea. Non ce l'ha le ventose questa. Non ne ha. E allora devi abbassare il parasole e tenerlo col parasole. Io volto, vedete lo posso, cioè una volta io lo metto così un pochino esplicito, capito? Però no, non anda bene, non anda. Ma ne ho fatto vedere uno che c'è tipo ombrellone, mi ha fatto vedere, dice che è più efficace, è migliore. Ma chi se mi fa la cagata? Io non ho già ancora compreso nulla, da voi. E io vabbè, qui arrivo a comprendere tanto. Si apre tipo ombrello e poi si attacca alla parete della macchina. Dovrebbe avere le ventose, perché quello che ho visto io aveva le ventose, si attaccava con quello. Questo non è la ventosa, non l'ho mai visto di ventosa. Me l'hanno visto di luce. È proprio una madre di te. Ma lascia la istruzione, non c'è luce. No, mamma se può fare un gambe. Vieni qua. Mamma mia, me ne combina tutti i colori. Aspetta, ma tu non lo sa barre, aia! Ma tirato un cazzo di cose, non va a correre a barre, ma tutto. Oh, una bilandra, pierino la peste. Chi se la peste a vivere per me? È ricchietto, mi piace stare al centro dell'attenzione, lo fanno anche per quello, capito? Perché vogliono far vedere di esserci. Ma non mi dico di cosa parlo però. È incredibile, ragazzi. Vieni qua. Speriamo che dopo ci do il sapere. A me lo fa più. Cosa c'è? La bua c'è. Cosa c'è? Cosa ti è successo? Ti sei graffiato? Perché sei una scena? La scarpa te l'ha messa l'occhio. Altro dai, mi riposo un po' perché mi sta prendendo un po' di sonno, dai. Ci sentiamo alla solita ora, dai. Ciao, ciao. Gabriele. Ciao, ok. Tanto invece non entra nessuno, è troppo presto. Ciao, ciao. Hola, hola, hola. Chi è? Attenzione, canale di Cigappa! Vabbè, Flamme, coppia, che qui llueve un poco ya, no vengas con il trattore. Che qui llueve un poco ya, che no vengas con il trattore hasta ver lo che pasa. Quanto llevaba? Che se pasa ya, poco de eso, aquí una gota en calle, prueba, a ver. Facendo casino. Hola. Adelante, adelante. Avanti, avanti, qui Sardegna, avanti. Partiamo coperto, ti hanno. Sì che ti sento, ma sono questi qua che arrivano più forte di te, arrivano. La propagazione, io sto andando in frente, quattro watt. Da dove stai modulando? Da Sassari. Sardegna? A Sassari, Sassari! Giappa, e tu da dove stai modulando? Ti hanno coperto, ti hanno, ma dove? Sta arrivando un po' bassino di radio, sta arrivando. Kappa, adesso ho capito bene, 351. Kappa. Tu bene mi senti in quelle coordinate? Right side, 10 minutes, you put it as a 3 hours, you can't go down to the 2 hours.